24 mattino. Io lavoro in sanità e non capisco ancora perché a noi non vengono fatti i tamponi. Noi stiamo trasformando gli ospedali nella più grande forma di contagio che esiste, virgola. È inutile che rimaniamo a casa a questo punto. Ciao, sono Luisa e sto andando a lavorare e lavoro in ospedale nel reparto dialisi e si va avanti. Buona giornata. Guardate che ci sono tanti datori di lavoro che non gliene frega niente del decreto, proprio non vogliono mollare a discapito della salute dei propri dipendenti, ha capito? Perché è una grande fregatura questo decreto, perché se i clienti rimangono aperti, anche se il decreto glielo vieta, l'importante è che i clienti siano aperti per poter lavorare con segnali, indipendentemente dal decreto. Questa è la realtà e questo lo dimostra che sono qua a lavorare. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Dunque, il tema della sanità e dei tamponi fatti ai lavoratori della sanità, quella è una questione aperta. Ieri c'è stata una protesta, adesso arriveremo magari, se avremo tempo, a leggere anche le pagine di giornale che ne parlano. È un po' di polemica, e la polemica è stata: ma perché ai calciatori sì e al personale della sanità no? E ancora, c'è un modo per farsi il tampone privatamente, perché poi è l'elemento che si aggiunge, perché se l'hanno fatto a tutti i calciatori o a molti calciatori, beh, insomma. Un abbraccio a Luisa e a tutti quelli che in queste ore lavorano negli ospedali, così come all'ascoltatore ci ha mandato un WhatsApp prima, che lavora nel reparto dialisi. Luisa, dai, dai, vi siamo vicini per quanto possibile, a distanza. Oh, il tema delle fabbriche aperte, dei luoghi di lavoro aperti, è un tema aperto, insomma ne trovate molto sui giornali, uno dei temi centrali sicuramente di questa giornata. Io mi limito a far notare questo: dipende da chi è il cliente e dipende da cosa devi produrre. Ancora una volta il tema è quello dell'integrazione di un'economia moderna e quindi la difficoltà a distinguere cosa è essenziale da cosa non è essenziale. E gli esempi possono essere mille, da un'azienda per esempio che produce corde e dice: a che servono? Magari ci fanno le reti da pesca e il sartiame per le barche che servono per andare a pesca e quindi portare il pesce nei nostri supermercati. Dico per fare un esempio, Oppure sono corde che servono a livello ospedaliero. Capite che è tutto complicato, le filiere sono molto lunghe, le filiere di fornitura. Quindi se tu decidi di chiudere una fabbrica perché la ritieni non essenziale, ma questa fabbrica produce un pezzo fondamentale per fare, per esempio, un letto per la terapia intensiva, è evidente che questo è un problema, no? Allora, ripeto, abbiamo un problema di classificazione delle attività economiche, che è un sistema di classificazione vecchio, antico. È questo. E quindi in tutto ciò dico che comprendo la preoccupazione dei lavoratori che in queste ore devono andare a lavorare, e non è che non la comprenda, però dall'altra parte bisogna vedere anche l'altro aspetto della vicenda. Comunque, ripeto, dibattito aperto, ci arriveremo anche nel corso di questa rassegna stampa, la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, sono le 7:22 di martedì 24 marzo. E ci arriveremo a questo, perché è uno degli elementi nel comporla oggi. Possiamo dare un'idea, vi darò un'idea di qualche storia dal territorio che arriva, a partire da quelle di Piacenza e di Rimini, passando per il Mezzogiorno. L'aspetto economico, e quindi che tiene dentro la questione delle fabbriche, oggi tra l'altro ci sarà un incontro del governo con i sindacati, ma anche le questioni europee sulle quali oggi apre il Sole 24 Ore e alla quale è dedicato l'editoriale del direttore Fabio Tamburini, e poi la questione un po' più politica, che ha a che fare sicuramente con il tema delle opposizioni che ieri insomma si sono incontrate con il governo, sempre mantenendo ovviamente le distanze con le mascherine, quindi non sono più gli incontri di una volta, e dall'altra parte i nuovi provvedimenti che potrebbero arrivare oggi, quelli ancora più restrittivi, con l'ipotesi di multe fino a 2.000 euro, se non, secondo alcuni giornali, fino a 3.000 euro, appunto, per chi fosse trovato a chi venisse trovato a violare le leggi. Iniziamo come sempre però dai titoli principali dei quotidiani, dalle aperture. La Repubblica ha un'apertura dedicata a un'intervista al capo della Protezione Civile, il titolo è "Siamo lenti", Borrelli dice "siamo lenti, il virus va veloce", la amara verità del capo della Protezione Civile sul numero dei contagi e sulle mascherine, anche se tutti segnalano, un po' tutti i giornali, che c'è un miglioramento complessivo dei dati, tanto che il Quotidiano Nazionale titola "Restiamo a casa, la strada è giusta", anche se a centro pagina c'è proprio la polemica sui calciatori e sui tamponi che vengono fatti. Virus, uno spiraglio non basta, è il titolo del Messaggero, a segnalare che insomma i dati che abbiamo visto ieri, che pure sono positivi, insomma relativamente positivi, ovvio, sono dati sui quali bisogna mantenere alta l'attenzione. Morti e ricoveri, primi spiragli, è il titolo del Corriere della Sera, lievemente più ottimistico. La Stampa sceglie di aprire su questa nuova stretta, la nuova stretta per battere il virus, così titola il Quotidiano. Al tema delle industrie e delle fabbriche aperte sono dedicate le aperture del Manifesto, del Giornale e di Libero. Il Manifesto, la voce del padrone, sotto la pressione di Confindustria il governo lascia aperti 80 settori produttivi, proteste in molte fabbriche, domani sciopereranno i metalmeccanici della Lombardia e del Lazio che chiedono di fermare altri luoghi di lavoro non essenziali. Ne parleremo tra l'altro più avanti, lo faremo tra l'altro col ministro alle politiche agricole Teresa Bellanova, che è un ex sindacalista come saprete. Il titolo del Giornale invece è su un'intervista a Bonomi di Assolombarda, "non siamo un tori", sono le parole degli industriali, dice "imprese sicure, la Serrata sarebbe irresponsabile". È Libero, molto duro con Maurizio Landini, "sindacati, blocchiamo il virus con lo sciopero, Landini, grottesco", è il titolo di Libero. Il Fatto Quotidiano si dedica agli infermieri, parla di infermieri presi con dei contratti di collaborazione ma che eroici, danno 13 euro lordi all'ora, sfruttati nel nord epicentro del virus. La Verità parla delle regioni, imprese, lavoratori, Giuseppe ha spaccato l'Italia, riferimento ovviamente a Conte. E infine, come si diceva, il Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che si dedica invece al tema che sarà un tema centrale di questa settimana a livello europeo, ossia gli incontri che si svolgeranno prima, ovviamente sempre virtuali, prima a livello di ministri delle finanze e poi a livello di capi di Stato e di Governo, oggi e poi giovedì capi di Stato e di Governo, sulle regole del patto di stabilità e soprattutto sull'utilizzo del fondo salva Stati. E su questo il titolo "Europa, linea dura dell'Olanda", e c'è un editoriale, come si diceva, di Fabio Tamburini, del direttore "In guerra, le regole vanno cambiate". Questi i titoli principali. Veniamo un po', come si diceva, partendo da singole storie, da singole questioni che hanno a che fare con il territorio, e fatemi partire da Piacenza, che si è trovata oggettivamente in una situazione di mezzo, perché in una situazione di mezzo dal punto di vista geografico, perché pur essendo parte dell'Emilia Romagna è molto vicina alla Lombardia, e dunque un paio di giornali si concentrano su questo, lo fa la stampa, lo fa la Repubblica, che a pagina 15 con Eleonora Cappelli ci porta in una situazione devastante: "La città sul confine che lotta per esistere, non abbandonateci". Il pezzo inizia così: "Le bare sono accatastate nella sala del commiato. Il forno crematorio di Piacenza non è sufficiente per tutte e un centinaio sono rimaste in fila. I necrologi riempiono 7 pagine del quotidiano La Libertà. Ogni giorno. C'è anche un ospedale da campo, costruito dalla Protezione Civile e dall'esercito. La conta dei contagiati da coronavirus e dei morti non si ferma. Altri 120 sono risultati positivi, più di 1800 dall'inizio dell'epidemia. Altre 26 persone non ce l'hanno fatta, il totale è salito a 340. E così Piacenza si ritrova con un primato che non voleva, la provincia più colpita dal Covid-19 in Emilia". Tanto che ieri il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha dato la sua risposta, un'ordinanza ancora più restrittiva per limitare contatti sociali e attività produttive, come una specie di nuova zona rossa. dove operano medici come Daniela Aschieri, che era primario di cardiologia dell'ospedale Castel San Giovanni e adesso è diventata pneumologa sul campo. Tutti fanno tutto. L'emergenza richiede questo. Lavoriamo giorno e notte, racconta. Io forse tornerò tra un anno a fare la cardiologa. Adesso mi occupo di ventilazione non invasiva. L'ormai famoso casco. E aggiunge, abbiamo notato un calo degli infarti e si sono azzerate le fratture del femore. Stare a casa, sorride con un sorriso amaro, ovviamente. Ha avuto anche dei risvolti positivi. Ancora Emilia Romagna e Romagna nella fattispecie, perché siamo a Rimini. Varchi presidiati, ci racconta il Quotidiano Nazionale a pagina 13. Rimini chiude tutte le strade. Non si entra e non si esce. Automobilisti bloccati. La regione dice stop anche a Piacenza, ora tocca a Parma. 60 posti di blocco, racconta Alessandra Nanni a pagina 13 del Quotidiano Nazionale. Varchi solo per le arterie principali, presidiate da polizia, carabinieri ed esercito. Da ieri mattina sulla statale 16, una delle pochissime arterie rimasta aperta, tutt'uno con quel pesarese da cui Rimini deve star lontana, ci provano in molti a superare i varchi. Devo andare a lavorare, dicono alcuni. Ci sono stipendi da pagare in azienda, dicono altri. Si prova a scollinare, a passare da dietro, ma anche là ci sono blocchi e transenne. Sto portando le analisi a San Giovanni in Marignano. Azzarda una 60enne che arriva da Gradara e che ha forzato uno degli sbarramenti che qualcuno prima di lei ha in parte divelto. I carabinieri la prendono sul fatto e la rispediscono indietro, graziandola. E questo è un altro racconto di una città, da un territorio colpito come quello di Rimini. A proposito di strade, si va in giro, ci si prova, ci provano i romani e ci provano in massa a quanto pare a raggiungere le case al mare. Fuga da Roma, denunciati 1400 ai blocchi stradali, ci racconta il Messaggero a pagina 30, il pezzo lo firma Lorenzo De Cicco. Prove di fuga verso la Villetta al mare, da Santa Marinella a Torvaglianica o ancora più giù, sul litorale Pontino. Seconde case trasformate in buon ritiro da Covid-19, dove trascorrere queste settimane di isolamento o almeno uno scampolo di quarantena. Ma a sbarrare la strada a chi si è improvvidamente messo in macchina in questi giorni, in barba ai divieti del governo, ci sono pattuglie di polizia, carabinieri, vigili urbani e guardia di finanza. Solo tra sabato e domenica 50.000 controlli tra auto, scooter e cittadini a passeggio, e in 1400 appunto denunciati, 730 domenica, 650 sabato, per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Nelle autocertificazioni più o meno scrivono tutti la stessa cosa: vado a fare provviste, vado in farmacia, vado al lavoro, anche se adesso, dopo l'ultimo decreto del governo, i margini si sono fatti ancora più stretti, poi tocca dimostrare che è effettivamente così. E spesso così non è. Tentativi frenati. In un quadro, però ve lo devo dire questo, perché i dati vengono aggiornati quotidianamente dal Ministero dell'Interno. C'è un dato che è quello dei controlli effettuati e di quante violazioni vengono riscontrate, cioè quante persone vengono denunciate per violazione, poi andrà provato che era una violazione vera e propria. Ebbene, sappiate che il tasso di trasgressione è intorno al 5%, e quindi tutto sommato siamo un popolo disciplinato, e diciamocelo, no, alla fine. Infine ancora Roma, prima di andare alla pausa, perché... maledizione, la vicenda di Ama, i Netturbini. Già venerdì il Messaggero lo aveva segnalato, molti si sono messi in malattia, ma non da Covid-19, si sono messi in malattia e basta, perché dicono i rifiuti potrebbero trasmettere il virus e quindi noi in strada non ci scendiamo. Dunque, in questo pezzo a pagina 34 della cronaca di Roma, Camilla Mozzetti ci racconta che sono stati evacuati due municipi e Virginia Raggi ha dovuto chiamare i privati perché appunto i Netturbini sono in fuga. I certificati medici auspichiamo francamente che vengano verificati con una certa attenzione. Una pausa. Ciao Simone, tutto andrà bene, ma io voglio fare una domanda. Io faccio un lavoro a rischio, tutti i giorni sono in giro da Vicenza a Padova e faccio consegne del pane ditte, fabbriche, ospizi, case di cura, eccetera. Ma perché non mi fermano e mi fanno il tampone? Così controllano tutti quelli che vanno in giro e che sono a rischio, no? Io volevo soltanto dire ai colleghi camionisti di resistere, tenere duro e stare attenti, soprattutto per questo momento difficile, perché ce lo rendono difficili le fabbriche e i posti dove andiamo a caricare e scaricare, perché ci trattano come degli appestati, ci hanno chiuso i bagni. Sono Paola da Desio e sto andando al lavoro all'ospedale San Raffaele. Volevo segnalare che la mascherina che ho messo ieri la devo riciclare fino a mercoledì. Ciao, grazie. Ed ecco qua, il tema delle forniture, ce lo sottolinea l'ascoltatrice. I tamponi estensivi, farli lungo le strade. In Corea del Sud stanno facendo un'operazione di questo genere. Il problema non è la quantità di tamponi, ovviamente, quanti ne abbiamo, ma il problema è la capacità dei laboratori di processare questo numero così alto di tamponi. Spero che ci si attrezzi presto. E sì, un abbraccio ai camionisti, un abbraccio anche agli autisti dei mezzi pubblici. Ci ha scritto un ascoltatore che fa... lavora per l'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, ma sappiamo che ce ne sono altri. E a tutti quelli, a tutte le categorie che in giornate come oggi devono lavorare e devono continuare a lavorare. Sì, i farmacisti che sono in prima linea, ce lo scrive un'ascoltatrice. E sì, quelli che impropriamente nel pezzo, lo diremo al nostro amico Lorenzo De Cicco del Messaggero, che impropriamente vengono chiamati vigili urbani. Sì, lo so, siete polizia locale. La definizione è polizia locale. Chiedo scusa, vigili urbani non esiste più. Polizia locale, un paio ci hanno scritto. Un abbraccio anche a voi, per il lavoro che fate tutti i giorni, particolarmente delicato appunto in questa fase di controlli. Oh... Continuate, 349-238-6666, WhatsApp audio, la vostra voce, fatecela sentire, fatemela sentire. Allora, un po' di cose rapide a questo punto, perché poi nella parte centrale della nostra rassegna stampa siamo ormai e quindi andiamo anche alle questioni economiche, alle questioni politiche. La prima che vi voglio segnalare molto rapidamente, pagina 17 del quotidiano La Repubblica, con Maria Novella De Luca, che ci porta su un tema che, e lo facciamo rapidamente perché lo avevamo già sollevato e lo aveva già sollevato la stampa qualche giorno fa. Il tema è quello delle donne maltrattate. Vi prego di prestare la massima attenzione a questo, ed è un tema a nostro giudizio destinato a crescere, destinato a rappresentare un problema. Perché in realtà le chiamate ai centri antiviolenza stanno scendendo drasticamente, ma questo non significa che stanno scendendo le violenze, significa semplicemente che le donne sono recluse in casa con quelli che spesso sono i loro torturatori e non hanno nemmeno la possibilità di fare una telefonata ad un centro antiviolenza. E dunque c'è il racconto appunto dei centri antiviolenza che denunciano questo problema, questo crollo delle chiamate, il crollo delle denunce, e c'è l'invocazione che arriva da Valeria Valente, presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio del Senato, la quale dice che ci vogliono misure concrete e urgenti, e tra quelle concrete dice: è possibile che il 1522, il telefono per denunciare la violenza, sia solamente un numero di telefono e un'email, e non ci possa essere un account WhatsApp o SMS collegato a questo? Bene, raccogliamo questo appello perché ci sembra un appello importante. La questione, l'ascoltatrice ci diceva, no? Parlavamo dei tamponi, no? E in generale delle forniture sanitarie. Dunque, un po' di polemica la trovate un po' dappertutto sui giornali, quella che vi dedica, il giornale che vi dedica più spazio, il Quotidiano Nazionale, quella sui tamponi lampo ai calciatori e l'ira dei medici, cioè la lettera di un primario che dice: signori, è possibile che si facciano esami a tappeto a sportivi e VIP? E a noi, come ci diceva un ascoltatore poco fa, che lavoriamo nel settore della sanità, che siamo dentro gli ospedali, che rischiamo di diventare dei vettori del virus, non si riesca a fare un tampone in maniera estensiva, non si faccia il tampone al personale sanitario? ci sono 4.824 contagiati nel personale sanitario e quindi insomma questo ci vuole, ne scrive Veronica Passeri appunto sul Quotidiano Nazionale, lo commenta Massimo Donelli e siamo a pagina 6 che parla dei troppi privilegi e dell'ultimo scandalo del pallone. Vi segnalo anche a pagina 8 del Manifesto il tema delle case di riposo che ritorna, lo abbiamo affrontato alle 6:30 nei giorni scorsi, nella giornata di venerdì e nella giornata di lunedì. Qua ci si torna con un pezzo estensivo che parte dal mezzogiorno, in realtà guarda a zone nelle quali già tutto questo è successo. Siamo a pagina 8 appunto del Manifesto, il pezzo lo firma Adriana Pollice ed è il virus che spazza via gli ospizi della RSA di Mombretto, frazione di Mediglia, nell'area metropolitana di Milano, 52 i deceduti. Nel Bresciano, nella RSA di Quinzano, lo ricorderete, l'abbiamo ospitati noi venerdì, qua si parla di 18 morti, in realtà i morti sono 22 ed è tutta gente che non viene contata come Covid-19, sono nelle residenze per anziani e anche qua è un tema di tamponi che non si fanno. C'è poi il tema dell'ira del Sud, l'assalto ai traghetti, l'attacco del presidente della regione Musumeci che dice il governo è colpevole, deve bloccare l'esodo, quelli che sono partiti, che stanno arrivando in Sicilia passando appunto dallo stretto in Calabria. Il governatore Musumeci, il presidente della regione Musumeci protesta, parla di un governo irresponsabile, attacca la Morgese, il ministro dell'interno, che dice lei sta assumendo una grave responsabilità nel vanificare gli sforzi e i sacrifici di milioni di siciliani. Ho chiesto al ministro l'uso dell'esercito e particolare attenzione per lo stretto, ma il Viminale replica seccamente e chiarisce: non rispondono al vero le accuse. Tutte le persone che hanno traghettato sono risultate legittimate a farlo. Erano forze dell'ordine e pendolari. Il traffico. Ed eccoci di nuovo. Dunque, due questioni centrali dominano la scena in questo momento e sono senza ombra di dubbio la questione delle fabbriche, alle quali sono dedicate le aperture di un po' di quotidiani, a partire dal Manifesto, come si diceva, che dà la sua interpretazione, parla della voce del padrone, quindi l'accusa è agli industriali di aver sottovalutato e richiesto un numero eccessivo di aperture o quantomeno di settori di attività. Ci sarà oggi l'incontro tra il governo e le parti sociali, dal quale presumibilmente arriverà qualche chiarimento. Il Giornale dall'altra parte intervista il presidente di Assolombarda, Bonomi, il quale insomma dà un po' di dettagli su tutto questo, no? Oltre a parlare di un certo sbandamento nelle decisioni sotto la pressione dell'opinione pubblica, dice che è un dovere ovviamente proteggere i lavoratori all'interno delle fabbriche, ma è diverso dal voler guadagnare il consenso politico dentro gli stabilimenti. E ancora il tema dei codici Ateco. Cosa sono questi codici Ateco? Sono i codici che identificano l'attività economica. I codici Ateco, dice intervistato da Marcello Zacchè, riflettono un'economia del secolo scorso, non danno l'idea dell'economia moderna. Chi è inquadrato come metalmeccanico potrebbe fare ventole per respiratori. Oggi le filiere sono interconnesse. Per esempio, nella mia azienda assembliamo un prodotto destinato alle terapie intensive, ora uno dei miei fornitori ha dovuto chiudere. Come facciamo? Se mi manca un componente non lo posso sostituire perché devo essere autorizzato. Le filiere sono lunghe e servono tutti i passaggi. E quindi una riflessione ulteriore evidentemente su questo tema sarà necessaria. L'altro fronte economico che è aperto è quello dell'Europa. Oggi ci sarà una riunione dei ministri. Prima di andare a questo, andiamo un po' con ordine perché c'è un buon pezzo su questo tema che vi chiarisce un po' di punti sul tema delle fabbriche, di cosa deve rimanere aperto, di cosa succede quando qualcosa si chiude. Un buon pezzo di Luca Orlando di cronaca, siamo a pagina 5 del Sole 24 Ore. Ci sono migliaia di imprese della componentistica fuori dall'elenco, anche se molte di loro sono già chiuse. La grande esclusa, racconta Luca Orlando, è la meccanica. Il vuoto forse maggiore spiega quello dei prodotti in metallo, codice Ateco 25, che vale nelle ultime stime Istat 80 miliardi di ricavi e 500.000 addetti, a cui si aggiunge l'area vasta delle altre macchine di impiego generale, che include tra l'altro rubinetti e valvoli, ingranaggi e cuscinetti, pompe e compressori. Insomma, dice il presidente dei componentisti dell'Anfia, Marco Stella, se penso ai produttori di viteria e gruppi di fissaggio o a chi realizza cuscinetti a sfera, vedo certamente realtà in cui i settori di sbocco sono numerosissimi, con un intreccio di filiere complicato, in alcuni casi non vi sono dubbi. La mia azienda, ad esempio, lavora con l'auto di lusso e ci siamo fermati. In altre situazioni, però, i clienti appartengono anche a settori strategici. Penso che ai prefetti arriveranno numerose richieste. Per esempio SKF, produttore di cuscinetti a sfera con stabilimenti oggi chiusi, però produce anche per il settore biomedicale, per il food, realizza parti di elicotteri e quindi, come capite, in un'economia così, con filiere così lunghe, è complicato, piuttosto complicato decidere che cosa apre e che cosa chiude, identificandolo con un solo settore di attività. Probabilmente tutto dovrà essere molto più puntuale. Tutto dovrà passare inevitabilmente da autorizzazioni richieste alla prefettura, autorizzazioni che le prefetture evidentemente si dovranno organizzare per dare molto rapidamente. Si diceva, l'altro tema centrale è quello dell'Europa. C'è questo pezzo di Beda Romano a pagina 2 del Sole 24 Ore che ci porta un po' su quelle che sono le tensioni non intorno allo sforamento del patto di stabilità, perché è quello sostanzialmente ormai è dato assodato da tutti. Dato per assodato da tutti, insomma, su quello non ci sono problemi. Ci racconta invece Beda Romano che c'è una certa tensione con l'Olanda che ha a che fare con l'intervento del MES, il famoso Fondo Salva Stati. E perché? Perché l'Italia, da una parte, insieme ad altri paesi, appoggiata dalla Spagna, chiede un intervento del Fondo Salva Stati senza che vi siano delle condizionalità, o almeno non vi siano delle condizionalità eccessive. Cosa sono le condizionalità? Vuol dire che da trattati europei, nel momento nel quale interviene il MES, il Fondo Salva Stati, l'Europa impone, per così dire, delle norme più stringenti. Il tema, un po' l'esempio che hanno tutti negli occhi e la cosa che spaventa tutti evidentemente è la Grecia, ammesso insomma che si possa arrivare ad uno scenario di quel genere. E dunque che cosa succede? Succede che l'Olanda, che è un paese che su questo sta cercando di imporre una linea dura, ossia la necessità di una condizionalità maggiore, quindi misure più dure. Vuoi i soldi del Fondo Salva Stati? E allora devi comportarti in un certo modo, devi prendere certe misure e fare determinate cose. A questo è dedicato l'editoriale del direttore Fabio Tamburini, il quale scrive che in guerra, questo è il titolo, le regole vanno cambiate. Previsioni sull'andamento dell'economia in questi giorni se ne vedono tante, ma quelle di ieri diffuse dall'IFO, il prestigioso istituto di ricerche tedesche, fanno accapponare la pelle. La pandemia da coronavirus potrà costare alla Germania fino a 20 punti percentuali di caduta del prodotto interno lordo. Questo significa milioni di occupati in meno, un costo di oltre 700 miliardi di euro. Una vera catastrofe. Dunque, il problema è proprio là, come si diceva, in quelle che sono le regole europee che hanno a che fare proprio con il MES, il meccanismo europeo di stabilità. E veniamo all'altro pezzo editoriale di Tamburini che si riferisce proprio a questo, alle regole previste dall'Olanda. Insomma, prosegue a pagina 8 con... quello che si legge nel comunicato olandese. L'Olanda è impegnata ad assicurare che una forma appropriata di condizionalità sia rispettata per ogni strumento utilizzato, come richiesto dall'attuale trattato del MES. Insomma, bisogna far qualcosa, se non come la Grecia, poco ci manca. Scrive Tamburini, insomma, siamo di fronte a un'emergenza economica, ad un'emergenza di guerra. In caso di guerra le regole vanno cambiate, questo è il punto. Si sofferma il direttore del Sole 24 Ore anche sul tema del Parlamento che fa qualche difficoltà a riaprire, e questo ci porta alla questione politica. Questioni politiche anche qua ben riassunte sul Sole 24 Ore a pagina 8 con un pezzo che racconta un primo passo, no, nei rapporti tra Conte e l'opposizione, ma restano tutte le distanze, con un Parlamento, scrivere Barbara Fiammeri, ridimensionato e che però rivendica il suo ruolo sul decreto legge Cura Italia, e soprattutto con le nuove norme che sono in arrivo. Qua ci fermiamo sul Messaggero, siamo a pagina 5, che dà un po' il Messaggero, perché dà l'interpretazione un po' più estensiva, o meglio l'ipotesi più dura da questo punto di vista: super multe fino a 3.000 euro, confiscare anche auto e moto. Questa è l'ipotesi, è stato fissato per le 14 di oggi il Consiglio dei Ministri, nel quale verrà deciso in che modo inasprire le pene per tutti coloro che violano le norme imposte dal decreto del Presidente del Consiglio. La decisione è stata presa non soltanto perché continua a esserci troppa gente in giro, ma anche perché da più parti il governo è stato sollecitato a intervenire in maniera energica. Qual è il modo migliore per convincere gli italiani a stare a casa? Certamente cominciando con il bloccargli l'auto, ossia con il fermo amministrativo o la confisca del mezzo sul quale sta viaggiando, ma anche con multe molto salate da pagare, da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.000 euro. Già in diverse regioni d'Italia il disubbidiente si è visto contestare il pagamento di una bella cifra, a cominciare dalla Lombardia, dove un'ordinanza del governatore prevede fino a 5.000 euro di multa per chi non rispetti le distanze di sicurezza tra una persona e l'altra o stia per strada senza giustificazione. Come vedete, insomma, c'è l'idea di un'ulteriore stretta, sulla quale ovviamente si potrà discutere, perché i dati che vi fornivo poco fa in realtà dimostrano che tendenzialmente gli italiani le regole le stanno rispettando. Il tasso di infrazione, tra l'altro basato sulle sole denunce, insomma ancora da accertare, intorno al 5%, e qualche segnale che i provvedimenti stanno iniziando ad avere effetto, evidentemente ce lo abbiamo. Cosa mettere per chiudere questa rassegna stampa? Beh, sicuramente l'intervista al quotidiano La Repubblica firmata da Corrado Zunino con Angelo Borrelli, il capo della protezione civile, il quale dice che i numeri sono altri rispetto a quelli che sono registrati, l'epidemia va più veloce della nostra burocrazia. Chiede Zunino: in Lombardia ci sono stati ritardi e impreparazioni, i clinici hanno perso presto il controllo dei pazienti contagiati, il numero dei casi lombardi è stato subito soverchiante, i medici si sono buttati nella cura e non hanno avuto più tempo di fare indagini. Fin dall'inizio, va detto, ci sono stati comportamenti pubblici che hanno alimentato il problema nazionale, ossia la comitiva dell'Odigiano che il 23 febbraio è andata a Ischia portando il contagio sull'isola, e i primi positivi a Palermo con i 29 bergamaschi in vacanza in Sicilia. Con un virus così rapido gli atteggiamenti sociali, dice Borrelli, sono stati decisivi. Ci aggiungiamo noi anche la partita dell'Atalanta, insomma bene evidentemente non ha fatto. A chiudere il Fatto Quotidiano, pagina 6, altro che eroi per noi infermieri, co a 13 euro, mentre aumentano i contagiati tra i camici arriva la denuncia dalle regioni più colpite. Lo racconta Natascia Ronchetti, che raccoglie un po' di insoddisfazione soprattutto appunto tra gli infermieri, i quali vengono assunti con dei contratti provvisori, ovviamente perché il momento è delicato e sono state varate le norme di emergenza. Ebbene, parlano di 13 euro all'ora per questi infermieri. Noi ci fermiamo adesso, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, avremo ospite Massimo Galli, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, per fare un punto anche su questi ultimi numeri che sono arrivati e che sembrano dare un qualche conforto, e poi avremo la ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, tra l'altro ex sindacalista, con lei evidentemente parleremo anche della questione delle fabbriche, ma non solo. Un ascoltatore che lavora dal mondo dell'agricoltura ci ha detto: parlate anche di noi, che preoccupazioni ci sono anche per noi. Certamente lo faremo, è ovvio. Una pausa, GR24, a dopo.